Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera, benvenuti a Mr. Kilowatt. Poche settimane fa Bloom Energy, una new company nata nell'alveo della solita Silicon Valley, ha annunciato di aver iniziato a produrre Bloom Box, una cella combustibile, vedremo poi di cosa si tratta, che può essere alimentata con gas naturale, biogas e anche idrogeno. Secondo KR Schiedar, che l'ha inventata, una Bloom Box poco più grande di un cubo di Rubik produrrebbe energia elettrica sufficiente ad alimentare una casa europea con un'efficienza paragonabile a quella di una grande centrale a gas. Aziende del calibro di Google, FedEx, Walmart stanno già testando delle grandi Bloom Box da circa 100 kW da diversi mesi e pare anche con grande soddisfazione. E se per ora siamo lontani dai costi che si vorrebbero raggiungere, considerate che una di queste Bloom Box da 100 kW costa ancora $800,000, Schiedar giura che da qui a 5 o 10 anni un'unità di questo tipo in grado di alimentare una bifamiliare costerà $3,000. Allora partiamo da questa notizia per cercare di capire cosa dobbiamo aspettarci su questo fronte, quello cioè delle celle a combustibile nei prossimi anni. Ne parliamo con Stefano Campanari, docente di macchine e sistemi energetici ed esperto di celle a combustibile del Politecnico di Milano. Buonasera Campanari. Buonasera a lei, Emilio. Allora, la prima domanda è d'obbligo. Ci aiuti a capire che cosa sono queste celle a combustibile, più o meno come funzionano? Molto semplicemente. Dunque, le celle a combustibile sono dei cosiddetti generatori elettrochimici, sono dei dispositivi che sono in grado di arrivare all'ossidazione, quindi all'utilizzo di un combustibile, producendo direttamente energia elettrica, quindi realizzando la cosiddetta conversione elettrochimica dell'energia chimica di un combustibile in energia elettrica in modo diretto e in modo, oltre che diretto, particolarmente efficiente e pulito. Ecco, in un certo senso assomigliano delle batterie, solo che invece di avere impacchettati dentro tutti i reagenti chimici, gli si, come dire, fornisce costantemente un combustibile e l'ossigeno per fare avvenire le reazioni chimiche che producono energia elettrica. Si può vedere anche in questi termini? Esattamente, esattamente. Hanno forti analogie con le batterie a cui siamo tutti abituati, ma diversamente da queste, invece di utilizzare, diciamo, energia chimica contenuta nei materiali stessi della batteria, utilizzano energia chimica contenuta nei reagenti che vengono forniti alla cella. D'accordo. Ecco, quelle più note sono quelle a idrogeno. In questo caso, appunto, l'idrogeno viene combinato con l'ossigeno e si produce elettricità. Però l'idrogeno, io sono sempre stato molto scettico, non a caso, sull'idrogeno non è disponibile in natura, è molto costoso energeticamente produrlo. Sì. La cosa interessante è che queste celle a combustibile di cui stiamo parlando invece funzionano a gas naturale, per esempio a metano. Ecco, com'è possibile? Cosa cambia rispetto... Prego. Sì, certamente. La particolarità tecnologica delle celle, in particolare ad alta temperatura, è quella di poter far avvenire internamente, in modo efficiente e integrato termicamente nella cella stessa, le cosiddette reazioni di reforming, che sono reazioni capaci di trasformare un idrocarburo come è il metano in una miscela di combustibile gassosa diversa, composta da idrogeno in particolare. Quindi effettivamente l'idrogeno resta, in ultima analisi, all'interno della cella il vero combustibile finale, ma in questo caso non deve essere fornito dall'esterno, ma viene invece internamente prodotto ed elaborato dalla cella, che viceversa all'esterno è alimentata con metano o gas naturale. E questo, insomma, è molto interessante, perché il metano e il gas naturale ci sono in natura, diciamo, disponibili, sì, senza andare a prenderli su Giove. Ecco. Sì, e già distribuiti da reti capillari, esatto, tra l'altro in paesi industrializzati. Ecco, quali sono i vantaggi di questa tecnologia? Cioè, cosa comporta l'introduzione massiccia, ipotetica, di celle a combustibile, come dire, nella struttura, nel modo di distribuire l'energia? Beh, il grosso cambiamento si avrebbe nello scenario in cui queste unità di generazione elettrica fossero disponibili a basso costo e potessero essere diffuse sul mercato, abbastanza da mutare lo scenario di distribuzione dell'energia elettrica dall'attuale scenario centralizzato, diciamo basato su poche grandi centrali di grande potenza, a uno scenario invece di cosiddetta generazione distribuita, dove un gran numero di micro centrali distribuite sul territorio e in prossimità delle utenze forniscono energia direttamente alle utenze finali con una tecnica di funzionamento, di regolazione, diciamo on demand, si va a generare la potenza dove serve, senza o riducendo molto le perdite di trasmissione, e seguendo i profili dell'utenza direttamente connessa. D'accordo. Senta, è credibile questo annuncio dato da Bloom Energy? E non sono loro, tra l'altro, che stanno gli unici che stanno lavorando su queste tecnologie? L'annuncio è molto interessante e si situa nell'ambito, diciamo, di un movimento generale che c'è a livello internazionale che sta spingendo lo sviluppo di questi dispositivi. La credibilità credo che ci sia, anche se diciamo un condizionale e un certo ragionevole dubbio ed obbligo, avendo visto negli ultimi anni, io tra diversi anni che mi occupo del tema delle celle a combustibile, avendo visto grandi aziende anche impegnarsi in questo settore e poi scontrarsi con problemi tecnologici nell'effettivo raggiungimento dei bassi costi e delle lunghe durate che poi la tecnologia mira a raggiungere. Senti, in Italia si muove qualcosa su questo fronte? In Italia sì, ci sono aziende che stanno effettivamente mettendo a punto piccoli generatori basati su fuel cell per potenze che spaziano dal molto piccola, nel caso degli utilizzi domestici e residenziali, fino alla potenza un po' più elevata per gli utilizzi condominiali oppure per utilizzi nel settore terziario al limite commerciale. Ecco. Grazie Campanari. Grazie a lei. Bene, anche per questa sera è tutto. Mr. Kilowatt torna domani. Parleremo di come estrarre energia dalle onde del mare. Buona serata.